Benvenuti, frequenze di Radio Ciroma 105.7, ciroma.org per lo streaming, con le parole di Piero Calamandrei, uno dei padri fondatori della nostra Costituzione. Io pensavo fosse Oliverio. Ma assolutamente no, anzi, no. Ho scelto proprio questo testo importante, perché è un discorso fatto a Napoli, ai giovani dell'Università di Napoli, da parte di Piero Calamandrei, insomma uno dei padri fondatori della nostra Costituzione. Ed è importante, l'ho voluto proporre proprio per questo, perché nel momento in cui, insomma, oggi la Costituzione viene completamente smantellata, nel silenzio generale, praticamente l'appello ai giovani di quell'epoca da parte di Calamandrei è caduto sostanzialmente nel vuoto, perché nessuno ha vigilato sulla libertà, nessuno ha vigilato sulla Costituzione e sui diritti, nessuno ha fatto in modo che quei diritti e quei valori venissero poi tradotti in realtà per il popolo italiano, anzi si sta sempre più arretrando. Quindi in un momento storico molto particolare come il nostro, ho ritenuto importante riascoltare. Mi hai fregato, perché io pensavo fosse Oliverio. No, perché no, ho visto Cuccione con Bagno Cuccione e con Vandana Shiva parlare di sostenibilità. Poi ho pensato che lui avesse fatto questo discorso all'Expo. Purtroppo no. Perché ho visto anche i giovani sinistrati che hanno fatto un comunicato e sembravano più di sinistra quelli di Forza Italia. Hanno fatto un comunicato quelli di Forza Italia, i giovani, a proposito di giovani, proposito. E quelli democratici sembravano più di sinistra quelli di Forza Italia nel comunicato, almeno rispetto a quello dei giovani che difendono a spada tratta i compagni arrestati, caduti in disgrazia durante la battaglia. Diciamo così, insomma, alla fine la lezione di Calamandrei non ha sortito gli effetti sperati, se questi sono i risultati. Quindi era molto importante per queste persone ascoltarle di nuovo queste parole. Ognuno alla sinistra che si merita. Ognuno alla sinistra che si merita. In effetti sì, di fronte, insomma, a quello che sta succedendo nel mondo, poi dopo ne parleremo un po'. Daremo qualche spunto anche su questo. Sì, abbiamo tanti argomenti, oltre al marasma che è successo in regione. Ci sono anche delle novità sulla questione della discarica di Gelico, il ministero dell'ambiente, insomma. Sì, ci sono molte particolarità. Ci sarà anche un ospite, ci sarà Oreste che ci racconterà quello che è successo ieri a Trebisaccio, dove c'è stata la riunione dei Notriv calabresi, della Basilicata e della Puglia. Quindi avremo in linea anche Oreste nella terza parte nostra splendida. Oggi andiamo in onda fino alle 9:30. Sì. Preparatevi, cuori caldi. Avremo anche Oliverio e compagno Cuccione. Non sappiamo chi prima dei due, uno se prima Oliverio o prima Cuccione, ma uno viene anche Adamo, però devo dirlo, se no viene la polizia e lo arresta. No, non può starci. No, chiama per telefono. Ok, non viene qua. Va bene, dai. Vabbè, andiamo con la rubrica, poi primo pezzo musicale, così poi cominciamo la puntata vera e propria. Allora, oggi 29 giugno. Come prima notizia, proprio dalle pagine della storia di questi 29 giugno, nel 1807 viene abolita la Federazione dei Sette Comuni, la più antica della storia dopo quella svizzera. Una storia particolare questa qui. Mo, al di là di scendere nei particolari, era una federazione di comuni della valle d'Asiago. Sette comuni che si erano costituiti in Repubblica Indipendente. La particolarità di questa Repubblica era la folata che sul formaggio. No, la proprietà, no, è interessante, la proprietà non era né privata né demaniale. ma era collettiva. Cioè la proprietà era per statuto di tutti e di ciascuno, quindi un'esperienza è nata nel 1307, quindi, ed è durata fino al 1807, quindi 500 anni di storia e di proprietà collettiva applicata alla realtà, quindi un'esperienza molto particolare. Questi comunisti nascosti nei meandri del della nord storia. Poi ci spostiamo di secoli, andiamo nel 1934, 29 giugno, la notte tra il 29 e il 30, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, l'epurazione nazista dei vertici dello Stato e degli oppositori di Adolf Hitler, quindi oggi Hitler nel 34 prendeva il potere, quindi un'altra delle svolte della storia. Ci spostiamo di 10 anni in avanti, 1944, l'eccidio di 244 civili a Civitella di Val di Chiana, operato dalle truppe tedesche e ivi stanziate, quindi l'ennesimo eccidio, ce n'è uno ogni giorno, quindi quando facciamo la puntata ci capita sempre l'eccidio, io lo metto sempre per ricordarlo perché mi sembra abbastanza significativo. Poi dopo aver ascoltato Calamandrea ancora di più. 2006, 29 giugno, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Mehmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia statunitense nella baia di Guantanamo. Quindi una sentenza molto, molto forte, molto significativa. Delle condizioni dei prigionieri cosiddetti terroristi presi così dalla CIA con operazioni, no, ricordiamo quella di Abu Omar in Italia, in cui tre governi hanno apposto il segreto di Stato, quindi a dire che noi siamo un paese sovrano. 2009, 29 giugno, a Viareggio un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia, da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri, il bilancio è di 32 morti e 25 feriti, quindi per ricordare anche le vittime di questo terribile incidente a Viareggio nel 2009. Poi ricordiamo oggi con affetto Margherita Hack, oggi nel 2013, il 29 giugno, moriva appunto Margherita Hack, una delle più grandi astrofisiche italiane che ci ha lasciato, quindi la salutiamo. La rubrica è finita. La puntata pure, ciao, arrivederci. Abbiamo chiuso qua. Dobbiamo sentire la viva voce di Oliverio. Dai, come facciamo a perdere? Stavo scherzando. Va bene. Ci ha promesso un intervento a fum di cotone come quello di Calamandrei. Wow. Quindi restate in ascolto. Restate in ascolto. Ospitale in mano rucignale, un tipo per metta manco in sta male, un sindaco va pressa dalla ricca, l'hanno trovato sotto a coro picco e parlano di mappe, di casce e di tesoro, ma si l'hanno fricato tutto loro. E Bernardi sta lambeggiato tutto su schifo, l'avevi pensato, puro mancini che c'è crepato, per suo agnone si è ribotato, cuscisce blu, mina di Atena, sa pangareggia, sa di mandera, si fanno festini, s'accattano luci, ma non sul legno per fare una croce. Alla poltrona loro sono legati, per verità nessuno li ha cacciati, però come fantasmi spariscono i milioni, si fanno vita solo alle elezioni. Oltre al cinghiale c'è un lupo d'asila, fuori il suo ufficio c'è una grande fila, ti vuoto per cent'anni, che cose vanno male? Va buono senza contra forestal. E Bernardi sta lambeggiato, tutto su schifo l'aveva pensato, puro mancini che c'è crepato, per suo agnone si è rivotato. Cuscisce blu, mira di Atena, sa bangareggia, sa di Mandela. Si fanno festini, si accattano luci, ma non sul legno per fare una croce. Senti, già s'ha scordato i tutti i scaffi che l'hanno dato. Per su pensare alla giornata, una famiglia si ci ha buttata. Per si peggizzuni sempre votati, i figli vuoi si per rubati. Alziamo sa capo, scendiamo da chiazza, l'intelligenza sa mafia l'ammazza. Cuscisce blu, mina di Atena, sa bangareggia, sa di Mandela. Si fanno festini, sa cattano luci, ma non sul legno per fare la croce. No, gente. Bentornati così all'improvviso in studio 105.7 giroma.org. Come al solito Oreste ci ha sparigliato la scaletta, perché ci ha avvisato insomma che era già in linea, che non ha tempo, quindi Oreste, ci senti? Sì, ti sento, mi senti? Ciao disgraziato. Frangio, com'è? Bellissimo. Insomma, Oreste, su quel computer trovatevi pure voi la raspa o il comunicato, così magari siamo in due, ho intenzione di leggerlo. Sì, ok, va bene. Insomma, giusto per informare gli ascoltatori quello di cui andiamo a parlare. Praticamente Oreste ieri è stato come rappresentante della rete di difesa del territorio franconistico e anche del comitato ambientale pesano all'assemblea della RASPA, che sono i comitati della Sibaritide della zona nord di Cosenza, in particolare in Otriv, praticamente della sì. Calabria, dove hanno partecipato anche associazioni Otriv provenienti dalla Basilicata e dalla Puglia, per sì. parlare degli ultimi sviluppi e delle situazioni che si devono andare a costruire in futuro. Certo. Raccontaci un po' com'è andata a larghe linee. Questa chiamata è stata fatta appunto dalla rete delle associazioni Sibaritide e Pollino per la tutela. Successivamente appunto alla manifestazione del marzo scorso a Corigliano ci dovevano essere insomma dei passaggi fatti che dovevano essere adempiuti dalla regione e dai comuni per bloccare un po' queste trivellazioni che andranno ad imperversare sul Mar Ionio, cose che ovviamente non sono state fatte. Però magari per semplificare tutto vi posso anche leggere il loro comunicato, che mi diceva appunto questa iniziativa di ieri, che appunto, come detto bene, c'erano rappresentanti da Policorio, da Barletta, Andria, Bari, lo Stefano Gioia del Mercure, la Valle del Mercure, ovviamente noi come calabresi insomma della rete di difesa del territorio, il Nutriz Magna Grecia, che non ricordo il nome, ecco, la situazione più importante, ricordiamo la Lipu, eccetera. E niente, abbastanza partecipate, c'erano appunto circa una cinquantina di persone, ecco. Dunque, allora vi leggo un attimo il comunicato. Sì, vai. Ciò che sta accadendo nelle ultime settimane è la triste conferma del fatto che il pericolo delle trivellazioni nell'Alto Ionio non è mai scongiurato. È dell'8 maggio scorso la notizia che la società petrolifica Apennine S.p.A. ha ottenuto tutte le autorizzazioni ministeriali ed è in attesa della VIA, valutazione impatto ambientale e esterno dell'ambiente, per estrarre gas nella Sibaritide. Se arriverà, l'impianto sarà costruito entro i prossimi 3 anni a 500 metri dalla foce del Crati, al parco archeologico e i radi di Oreste, Oreste, scusa, sì. Non si sente bene la linea, mettiti... Non so, cioè, qua va bene, provo a spostarmi un po'. Sì, spostati un po'. Così potrà iniziare insomma la trivellazione, mi sentite adesso? Sì, adesso vai. E prelevare dal sottosuolo circa 300 metri cubi al giorno di gas. L'istanza dell'Appennina S.p.A. era una delle 4 che la Regione Calabria avrebbe potuto rigettare entro il 31 marzo e ciò non è avvenuto, per cui la palla adesso passa al Consiglio dei Ministri, infatti in particolare perché dal 1 aprile c'è la Sbrucca Italia, con l'articolo in esso contenuto. La salvaguardia del territorio da parte dei comuni e della regione è significativamente più problematica. Il presidente della regione Calabria, pur avendo più volte espresso pubblicamente la sua netta opposizione a qualsiasi istanza di trivellazione riguardante il territorio, non ha espresso alcuna forma concreta di dissenso, limitandosi a diramare un ambiguo comunicato stampa apparso il 2 aprile sulla home page del sito della regione. Altri fatti accaduti recentemente nelle stanze romane del governo fanno intuire chiaramente che le attività estrattive di petrolio e gas costituiscono uno dei fulcri della politica di sviluppo portata avanti da Matteo Renzi, che infatti il Ministero dell'Ambiente darà sicuramente il consenso per procedere purtroppo alla trivellazione all'Appennino S.p.A. Qualche giorno fa la Camera dei Deputati ha approvato, dopo un anno e mezzo di discussione, una legge molto ambigua sugli ecoreati, che l'avete anche voi ricordate nelle trasmissioni. Il divieto di utilizzare la tecnica distruttiva dell'ispezione dei fondali, denominata air gun, cioè verrà utilizzata questa tecnica. Nel febbraio scorso infatti il Ministero dello Sviluppo Economico ha consentito all'istanza di ripermetrazione di un permesso di ricerca rilasciato nel 2012 riguardante il tratto di mare situato di fronte all'area protetta del Delta del Po. Ha di fatto stracciato il divieto di condurre attività di ricerca estrattive entro le 12 miglia nautiche. Secondo la RASPA non è sostenibile ulteriormente una politica basata su un modello di sviluppo che è distruttivo ed obsolescente. La filosofia impostata dallo Sblocco Italia, che riguarda le grandi opere, l'edilizia, gli inceneritori, le attività petrolifiche, insiste sulle soluzioni dettate all'occasione, cioè peggiorerà le già critiche condizioni economiche ed ambientali del nostro territorio. RASPA rifiuta il modello estrattivista e si oppone a coloro che permettono di scambiare a cuor leggero la salute di tutti per il conto di pochi. RASPA continua a chiedere un modello sociale ecosostenibile che rispetti la dignità delle persone e il bene comune, che soprattutto a livello locale sia supportato da una prospettiva politica di lungo termine. E di fatto, insomma, oltre a parlare delle mobilitazioni che ci saranno contro le trivellazioni sia a livello regionale ma anche italiano, ricordiamo che questa è un'assemblea meridionale, però ce ne sono state altre sia nel centro e nel nord Italia. L'idea è appunto quello di fare le varie cose che si stanno pensando, di fare anche il referendum contro l'articolo 18 dello Sblocco Italia, con tutte le problematiche sui referendum che conosciamo, insomma, da raggiungere le firme oppure poi a raggiungere il quorum. Però al di là di questo si è anche discusso fra le varie associazioni, qua come anche altrove, del principio di precauzione, cioè di che non avendo la certezza che queste trivellazioni non siano dannose all'ecosistema, possono essere insomma fermate e bloccate sia dai sindaci che dalla regione. Però questo era evidentemente prima che mettesse in moto la storia dello Sblocco Italia. Di fatto la regione Calabria se ne è lavate le mani. Di fatto questo le castagne gliel'ha tolte pure alle regioni, dico in generale, non solo alla Calabria, gliel'ha tolta appunto lo Sblocco Italia, perché ha passato competenze, ha accelerato il rilascio delle licenze e tutto il resto, quindi è chiaro che la volontà politica del governo centrale è quella di procedere verso le trivellazioni sia in mare sia a terra, quindi come anche in Basilicata c'erano anche appunto comitati di Basilicata dell'entroterra, non soltanto sì, perché comunque è una cosa che riguarda anche l'entroterra. La domanda che sorge spontanea, Oreste, è oltre insomma agli strumenti di democrazia diretta, come può essere appunto quella che hai citato tu del referendum abrogativo, che tra l'altro è farraginoso e tutto il resto lo sappiamo, è anche pericoloso da un certo punto di vista, perché se poi lo perdi poi è dura riandare, no, a rimettere in campo la questione. Che cosa si può fare? Oppure come se lo vinci come quello dell'acqua non, e poi, non è effettivo. Quello che si può fare, questo è stato un altro passaggio sicuramente, è quello di invitare la popolazione a mobilitarsi in modo forte e determinato. Questo è stato anche detto ieri, insomma, procedendo innanzitutto a sollecitare nuovamente la regione. Ricordiamo che ad esempio il presidente della regione neoeletto Emiliano dalla Puglia ha detto no alle trivellazioni. Ovviamente bisogna far seguire alle parole i fatti, vedremo insomma, però non senza cadere né nell'attendismo fra i vari passaggi che si sono detti, insomma, soprattutto appunto dei pugliesi e dei lucani, senza alcun attendismo, senza cadere nel tecnicismo oppure nelle questioni giuridiche, no? C'era chi ricordava che oltre alla via ci può essere anche il VAS, cioè la valutazione di impatto strutturale, diciamo, insomma, di fermarle per la questione anche di che non sono previste oleodotti, che non sono previsti metanodotti, per cui comunque questa estrazione deve essere suffragata da altre strutture che al momento non ci sono sul territorio, che poi non si capisce dove vanno a impattare, quindi mancando questa progettazione dice non puoi andare a fare a costruire una piattaforma. È quello comunque di costruire, appunto, dare delle risposte politiche, innanzitutto di andare a costruire un fronte comune di tutte le lotte che non riguardino soltanto le trivellazioni, però anche con l'impegno della rete di difesa del territorio, riprendere in mano l'agitazione sulla questione, sulla problematica dei rifiuti. Ricordiamo che Oliverio ha completamente disatteso quelle che erano le sue parole, insomma, sul rifiuti zero, insomma, che aveva messo nel suo programma. Eh sì, vabbè, è una palla pure questa, insomma, no? La palla è al quadrato, la palla. Al quadrato, certamente, appunto. Anche se magari in questi giorni c'è altro a cui pensare, insomma, fra amici che sono stati mandati un po' a farsi un giro fuori regione e altri che insomma devono pagare le bollette. Io ci avrei idea anche di portare la mia bolletta a qualcuno di questi qua, chissà, magari Ferdinand Aiello è quello che paga le bollette, se vuoi andare da lui. Sì, magari vedo di farmi dare il numero di telefono da qualcuno di quei suoi scagnozzi, insomma, che tanto hanno predicato bene su queste persone, perché se aiuta i suoi genitori può anche aiutare me, insomma, non vedo quale sia la differenza, insomma, siamo tutti uguali alle fonti della legge, porterò le mie bollette a Ferdinand Aiello e compagnia, chissà, non mi pagheranno la bolletta della luce o del metano che sono già ampiamente scadute. Non per ritornare insomma più seriamente ai problemi concreti della nostra terra, che purtroppo poi quando ti trovi da parte con questa gentaglia è ovvio che non ci si può fidare né si può essere attendisti. Quello che si ha intenzione di fare è delle mobilitazioni a breve, innanzitutto sul territorio, per sensibilizzare le persone e riuscire a ricompattare un po' tutti quelli, gli amanti della natura o comunque quelli che hanno timore per lo sviluppo del proprio mare, della propria regione, eccetera, eccetera, per poi confluire verso settembre ad una manifestazione nazionale che potrà avvenire, che potrà essere in Puglia oppure nel sud del Basilicato o anche qua in Calabria. Questo poi sarà deciso via propria strada facendo, insomma. Strada facendo, certo. Comunque interessante appunto questa questione di costituire un ampio fronte di lotta per il rispetto delle istanze ambientali, dell'autogoverno e dell'autotutela dei territori. Questo mi sembra il dato più importante che è uscito da questa assemblea ieri. Finalmente adesso lo possiamo dire proprio a chiare lettere, finalmente non si fanno più battaglie di settore, si comincia a capire che la battaglia è complessiva, che tutti i fronti, certo, di lotta vanno uniti. Certo, come anche poi riprendere una questione più ampia di culturale, cioè dall'enogastronomico alla riscoperta dei paesaggi o dell'archeologia. A tal proposito, ad esempio, domenica 5 luglio alle 9:30 c'è una interessante passeggiata di scoperta, valorizzazione e difesa dell'area protetta dalla foce del Crati, quella appunto da cui 500 metri sarà fatta le trivellazioni, lanciato dal Notriv Magna Grecia, in cui ci sarà appunto questo raduno e passeggiata alle 9:30, poi arrivare alla foce del fiume Crati e soprattutto poi dove ci saranno appunto gli interventi delle associazioni e delle qualche istituzione presente, magari, che avrà la faccia. Tra i vari episodi ve ne voglio raccontare uno perché richiamo un po' anche la figuraccia dei nostri sindaci presilani, perché loro adesso, questi qua il Notriv Magna Grecia e il RASPA, stanno sollecitando i sindaci, no, che si affacciano, i cui territori si affacciano sul mare e non, di dire la propria, di fermare, fare delle delibere, qualcosa, insomma. E allora uno di questi sindaci, messo in difficoltà in un'assemblea pubblica, purtroppo la pratica dei consigli comunali aperti, anche se ci stanno, se in molti statuti dei comuni è soltanto carta straccia pure quella, comunque invece nelle assemblee pubbliche che sono state fatte su questo, su quell'argomento, intervengono i nostri bravi difensori dell'ambiente. E uno di questi sindaci dice: vabbè, allora la faccio questa cosa, ma che devo fare? Una delibera? Cosa devo fare? Una delibera, un decreto di giunta, una delibera? Cioè, la serie dice: ma fai quello che cazzo vuoi, basta che fai qualche cosa, insomma, non fa solamente chiacchiera davanti qua a queste 200-300 persone, però voglio vedere se domani poi la vai a fare veramente, insomma, la prossima delibera di giunta, quello che è, perché fino adesso hai fatto orecchie da mercanti. forse era quello di Cassano, adesso non ricordo quale. Comunque loro stanno lavorando bene, battendo il territorio in ogni situazione pubblica, politica e non, con volantinaggi, con interventi dal interventi poi come facciamo noi in tutte le situazioni che possono avvenire. E, ripeto, poi interessante questa questione di intrecciarsi con le altre storie, che è appunto la questione dei rifiuti innanzitutto e della depurazione, per cui credo che ci si aspetterà un'estate calda, insomma, di mobilitazioni, di confronti, di incontri con tutte le altre associazioni nei territori, per poter poi, insomma, vediamo se quello che ne uscirà il 18 o 19 luglio, ancora non è stata decisa la data, una plenaria della rete difesa del territorio a Lamezia, in cui poi ci sarà, da questo incontro si va andando a finire una strategia comune per quanto riguarda tutte le questioni calabresi, ambientali e non solo. Perfetto, sembra che hai detto tutto, Re. Sì, vi ringrazio. Grazie a te, Oreste, grazie davvero tanto. Ci sentiamo e ci vediamo presto. Sì, buon pomeriggio, un abbraccione. E quindi anche qui così passa la cosa. Siamo in alto mare. Anche sì, qui siamo in alto mare, neanche tanto, perché le trivelle poi sono un pochino... le piattaforme non sono neanche in alto mare, quindi non sono lontanissime. Poi il progetto di Sibba, che se ricordiamo bene ce ne ha parlato Giovanna Bellizzi, Giovanna Bellizzi di Notriv nella Basilicata, è stata abbastanza lucida e precisa nell'esposizione. Sappiamo benissimo quello di cui si tratta. Anche questa volta qui la regione annicchiata, era troppo impegnata a fare giunte che poi sono già state sciolte, ora si impegnerà altri 6 mesi per fare un'altra giunta. Speriamo che non vengano sciolte per mafia le prossime giunte, magari, visto che ci sono dei signori come quello che sta arrestato, che oltre ad essere indagato per questa lati di caramelle, le vogliamo chiamare, perché si tratta dei pezzenti, no? Dei pezzenti, Cuccione 27 mesi, sei un pezzente. Cazzo, sei un cazzo di pezzente, 27.000 euro, prendi 16.000 euro al mese, sei un pezzente, ti fa rimborsare pure le gomme da masticare, ma che cazzo di... I caffè, vabbè, dai. Cosa dell'altro mondo. Dico, questo signore di Gaetano che è indagato anche per... come si dice? Rapporti con l'Endrina. Scambio di voti dovuto a rapporti con l'Endrina, cioè, italiano, in particolare. Così pare un cazzo, perché ci sono gli scontrini della Corte dei Conti. Parlo di Degaetano. Così pare dei rapporti con l'Endrina. No, quelle sono palesi. Con tutto il garantismo che volete fare nei vostri comunicati, ci sono gli scontrini, è tutto già dimostrato, di cosa dobbiamo parlare. Infatti là, per quanto riguarda rimborso, non c'è niente da dire, niente da garantire. Non arresteranno i vostri capetti, però sicuramente hanno fatto una bella figura di merda e dovrebbero dimettersi, perché non è cambia verso questo qui, ma rimaniamo sempre alla stessa parte, mangiamo sempre gli stessi. Cambia sacchetta magari. Neanche, perché infatti si tratta comunque di situazioni inerenti alla vecchia amministrazione regionale, quindi che si trovano oggigiorno a essere ancora amministratori, estendeva tutta la giunta Oliverio più il presidente del consiglio regionale, che erano nello scorso consiglio regionale, quindi non cambia nulla, non cambia il verso, questo è palese. Quindi la sconfitta politica di Oliverio, perché deve dimettersi? Perché politicamente è stato sconfitto, politicamente ha fatto una scelta sbagliata, nonostante alcuni membri dello stesso partito gli avevano consigliato di non incaricare queste persone. La possibilità di cambiare verso forse c'è stata, ma non è stato cambiato sputato, nessun verso. Questo processo è proprio l'esempio palese del verso che non è cambiato, perché ci sono delle persone, della continuità politica con la vecchia regione. C'è poco da fare, anche gli atti poi alla fine dimostrano come questa continuità sta proprio nelle risoluzioni, negli atti amministrativi che hanno posto in essere fino a questo momento. E in ultimo anche questa situazione del Notriv, come più volte io ricordo anche da presidente della provincia, Mario Oliverio si era espresso totalmente contrario a queste tecniche di trivellazione e distruzione dell'ambiente a parole, però poi nei fatti, quando ci sta la possibilità, quindi in quei primi 3 mesi dove c'era la possibilità di dire no e di impugnare tutte queste licenze, con l'entrata in vigore dello sblocco Italia il 1 aprile, le competenze sono passate su allo Stato centrale, e quindi la regione potrà dire noi non possiamo fare nulla, mentre noi speriamo che comunque rimanga o non rimanga Oliverio, la regione con la nuova amministrazione, come nuova giunta, riesca, magari impugni lo sblocchi Italia, l'articolo 18 dello sblocchi Italia, e faccia un po' di peso a difesa della propria popolazione, fondamentalmente. Sì, ma basterebbe, basterebbe una presa di posizione comunque politica, nel senso che anche già, no, fare degli atti simbolici, no, di opposizione, perché poi se poi alla fine la legge non ti consente tanti margini di manovra, ma anche fare degli atti simbolici che potrebbero avere la loro importanza a livello politico, no, perché comunque un consigliere, cioè un governatore regionale che promana un atto, ok, la sua giunta promana un atto di contrarietà alle trivellazioni, pur non avendo magari effettività a livello legislativo, però a livello politico ha il suo peso, perché è comunque un'amministrazione regionale che dice no ad una determinata cosa, quindi poi si può giocare politicamente la partita, si può giocare sulla mobilitazione delle persone, sull'opposizione dei territori, no? Quindi può diventare un momento di opposizione sociale a delle scelte sbagliate che poi potrebbero far recedere comunque il governo, no, da alcune decisioni. Se lo fa la Calabria, lo fa la Basilicata, lo fa la Puglia, lo fa l'Abruzzo, lo fanno tante regioni che sono interessate a queste dinamiche e a questi progetti, no? Comincia a diventare pesante come opposizione politica nel paese nei confronti delle trivellazioni, nei confronti delle devastazioni dei territori. Il problema è che poi queste volontà politiche poi non vengono espresse. È lì il problema, il nocciolo della questione, perché si va avanti a slogan nelle campagne elettorali, nei salottini, nelle occasioni pubbliche in cui si viene impegnati a rispondere a determinate domande, si fa il solito slogan: noi siamo contro le trivellazioni, però poi nei fatti non c'è nulla. Noi siamo per rifiuti zero, e poi invece fanno i piani rifiuti con gli imprenditori. Esatto, è uguale, è sempre quella la dinamica, quindi... Magari se i giovani democratici regionali fanno anche un comunicato sul piano rifiuti che Oliverio vuole fare con gli imprenditori, sarebbe cosa buona e giusta, anziché fare i garantisti e scrivere questi comunicati chilometrici a difesa dell'indifendibile, perché è veramente indifendibile quello che è successo, cioè, sinceramente io non so che dire... Cioè, uno che si paga i caffè con i soldi della collettività, vuol dire che non ha veramente a cuore nulla. Se si compromette per un caffè, figuriamoci per qualcosa di più grosso. Cioè, veramente. Vabbè. Detto questo, mandiamo una canzonetta, una chanson de geste, come dicevano una volta in Francia. Così ci rilassiamo, sennò ci siamo innervositi. Qua poi fa caldo. Sì. Rilassiamoci, vai con il pezzo, Andrea. Un'eredità scomoda. Oggi la visione italica è che diciamo tatuata. armati con la firma della mafia. Mafia, mafia, mafia. Non mi appartiene, non ne ho questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria. La gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria. Mafia, mafia, mafia. Non mi appartiene, non ne ho questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria. La gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria. Mamma l'italiana. Stipendiato il 27 dallo stando nominato e condannato, nel suo nome hanno sparato, a ricontare le sue anime non si può più. Risponde la famiglia del pentito che ha cantato difendendosi a compare, tutti i giorni più incazzato sta da guerra tra famiglie, sangue e rabbia tra le griglie, con la fama come foglie che ti tradirà. Mafia, mafia, mafia. Non mi appartiene, non ne ho questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria. La gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria. Mafia, mafia, mafia. Non mi appartiene, non ne ho questo marchio di fabbrica. Mamma l'italiani, mamma l'italiani, manco l'italiani, manco l'italiani, mamma l'italiani, mamma l'italiani, manco l'italiani, manco l'italiani, mamma l'italiani, mamma l'italiani, manco l'italiani, manco l'italiani, mamma l'italiani, mamma l'italiani, manco l'italiani, manco l'italiani. 10 secondi. Bentornati in studio, 105.7 giroma.org, la musica che si è bloccata di colpo ci ha lasciato di stucco. Italo, che cosa... Vabbè, chiudiamo capitolo scandalo rimborsopoli di Oliverio, perché insomma parlare, continuare a parlare di queste cose sinceramente è una perdita di tempo. È una vera perdita di tempo, insomma dovrebbero essere loro a fare le valutazioni politiche e non politiche di quello che è successo e di quello che hanno fatto, quindi... Stanno organizzando una manifestazione per la legalità, quelli del PD, quindi... Va bene, ok. Hanno la faccia come il culo. Probabilmente è un po' sì, è un po' sì. È la frase giusta da dire. Invece ogni tanto un mea culpa ci starebbe bene. Vabbè, comunque. Detto questo, lasciamo la palla a palla. Sì. Rientriamo nel mondo dei rifiuti, della munnizia, come a noi piace galleggiare, visto che siamo scarafaggi. Giusto per dire due cose, in settimana è uscito il comunicato della rete di difesa del territorio franco-nistico, in cui si invita ancora una volta Oliverio a confrontarsi con i comitati, visto che ha avuto il confronto con gli imprenditori, visto che ha avuto il confronto con Legambiente, vorremmo che si confrontasse anche con i comitati in merito alla stesura di questo tanto atteso piano rifiuti, che dovrebbe essere pubblicato a fine luglio addirittura. Ancora non si sa nulla, se non questi fantomatici impianti a Sibari, a Reggio Calabria e Catanzaro, di cui non si sa che impianti si fanno. Sì, sì, di concreto c'è soltanto l'impegno che ha preso Oliverio di fronte, insomma, agli imprenditori di portare avanti una politica che li favorisce, e addirittura ha promesso, come dicevamo nella scorsa puntata, dei fondi, no, da destinare proprio allo sviluppo degli impianti, tutte le cose che sono necessarie al ciclo dei rifiuti, e poi darle in gestione a loro. Quindi questo è quello, è lo stato dell'arte attuale. Aspettiamo, insomma, questo incontro, chissà, prima, spereremmo prima, insomma, dell'emissione di questo piano rifiuti, insomma. Quindi ancora una volta i comedi tendono la mano agli amministratori, cercando una collaborazione, almeno una condivisione, se non collaborazione. Detto questo, quantomeno una discussione, sì. Quantomeno un confronto. No? Se dobbiamo prenderci a schiaffi in faccia, almeno quantomeno ci diano la possibilità di farlo apertamente, no? Assolutamente. A guardarci negli occhi, perché insomma abbiamo vissuto di slogan in questi mesi, da quando si è insediata questa nuova amministrazione regionale. Abbiamo vissuto solo di slogan, e poi in faccia non li abbiamo mai visti, li vorremmo vedere prima, toccare con mano. Prima che si rimettano. Speriamo Speriamo. Va bene, dai. Vabbè. Niente polemiche. E a proposito di questo, quella famosa quarta commissione che doveva riunirsi lunedì scorso si riunirà il 30 giugno, quindi domani. Quindi si parlerà di rifiuti domani nella quarta commissione, Reggio Calabria, vedremo che cosa ne uscirà. Nonché rimane sempre fissata questa assemblea dei sindaci il 3 luglio, a meno che non succeda qualche altro patatrac, o che dovrà pensare a che assessori portarsi perché il 5 entra in vigore le modifiche dello statuto, quindi potrà nominare questi nuovi assessori che cambieranno verso alla Calabria. E sempre in materia di rifiuti, mentre tutti parlano di questa rimborsopoli, di questi pezzenti che sono rubati le caramelle ai danni della collettività, è arrivata una bella batosta dal governo centrale, nel senso che il ministro dell'ambiente ha fatto sapere che queste ordinanze contingibili e urgenti emesse per oltre 18 mesi sono illegali perché non sono previste dalla legge, dal 191. Sì. E ha detto a chi ha questionato, insomma, il ministero, che Oliverio e il governo regionale calabrese non ha proferito risposta a quanto comunicato dal ministro dell'ambiente. Quindi questa è una bella botta, però è uscito un trafiletto sui giornali. Morto nel silenzio. La considero grave tanto quanto la vicenda rimborsopoli, nel senso che un ministero ti interpella in materia di rifiuti, e noi siamo stati in emergenza sotto commissario per oltre 15 anni e oggigiorno siamo ancora in emergenza nonostante non ci sia più il commissario, siamo senza piano rifiuti, e tu non preferisci parola, non rispondi neanche con un trafiletto, con un comunicato ufficiale della regione. Per me questa è una cosa veramente inaudita, di una gravità inaudita. Sì, sinceramente. È molto grave, e poi soprattutto aggiungerei, Italo, una cosa molto importante, perché la legge, insomma, impone, no? In presenza di un dispositivo del genere, come sono contingibili e urgenti, le ordinanze contingibili e urgenti, di fronte a un dispositivo del genere, il ministero che ti dice che è legittimo prorogarla, ok, ti chiede comunque un cambio. Se tu non rispondi, sono mesi, insomma, che la domanda il ministero l'ha fatta, quindi si tratta di inizio maggio, mi sembra. Sì. Sono passati già due mesi. Prima del rinnovo. Sì, prima del rinnovo. Sono passati già due mesi da quella domanda che il ministero ha posto alla giunta Oliverio. E non essendoci risposta, c'è il rischio che il ministero decida di nuovo di commissariare la regione sui rifiuti, sì. Perché adesso la legge parla chiaro, una volta che la regione non riesce a risolvere il problema, perché appunto è stata costretta ad emettere più volte per più di 18 mesi queste ordinanze, tutta la questione passa in capo al ministero, e quindi potrebbe di nuovo attuare un commissariamento, che sarebbe una tragedia di proporzioni bibliche. Assolutamente sì. Purtroppo la direzione, se non si trova la soluzione rapida alla questione, purtroppo il ministero potrebbe anche bloccare l'emissione del piano rifiuti. Quindi Oliverio si dia una mossa e soprattutto risponda come deve rispondere al Ministero dell'Ambiente, perché la questione è sul tavolo. Noi, detto per inciso, ringraziamo Barbanti e l'area Alternativa Libera che ha proposto la nostra interrogazione, gli abbiamo fornito tutta la documentazione e questi parlamentari hanno presentato questa interrogazione al Ministero, quindi li ringraziamo per quello che hanno fatto. Anche è uscito pure un articolo in cui sì. Barbanti appunto commentava la risposta del Ministero, quindi insomma, noi li ringraziamo per quello che hanno fatto. Ora ne sta preparando un'altra, perché insomma, addirittura nella risposta del Ministero, il Ministro dell'Ambiente ringraziava per aver sollevato la questione e per averlo informato su una cosa che non sapeva. Quindi è un ringraziamento del Ministro che va anche a noi. E noi chiediamo, insomma, a Barbanti e agli altri parlamentari di continuare ad insistere. E chiediamo una risposta sia al governatore della regione e sia al ministero, insomma, che si spiccino, perché in questa confusione non si va da nessuna parte. Non se ne esce assolutamente. Anche perché le premesse, come abbiamo già detto nelle scorse puntate, abbiamo ripetuto anche oggi, sono veramente negative, nel senso che sembra che Oliverio sia approntato a affidare la gestione dei rifiuti al privato. Privato che oggi ancora già oggi fa ciò che vuole con gli impianti, perché sono gli unici impianti a essere operativi e aperti. Sì, sì, sì. Addirittura, io non so se posso dirla, ma la dico, non me ne può fregare di meno, l'amica ha chiesto il trasferimento del nostro consiglio straordinario al Presidente della Repubblica, al TAR, nelle sue possibilità, e l'ha chiesto. Quindi ciò vuol dire che stiamo incidendo sulla situazione, e hanno paura di essere smascherati. Sono molto nervosi, perché addirittura in questa settimana c'è stato un incidente sulla strada della discarica, una cisterna del percolato ha avuto un problema tecnico, meccanico, quindi non ha perso percolato, per fortuna. Per fortuna. Alcuni ragazzi del comitato si sono recati in zona per fare delle fotografie e sono stati minacciati e insultati dall'amministratore delegato dell'amica, Alessandro Brutto, visibilmente nervoso, perché diceva che là non ci potevano stare. Ovviamente non è così, perché è una strada pubblica. Tutto ciò è avvenuto davanti al sindaco di Celico, che non ha proferito parola, faceva le fotografie e basta. Questo è, ciò è il riassunto di quello che sarà il prossimo piano rifiuti, cioè l'imprenditore privato che fa ciò che vuole del pubblico. Addirittura, come abbiamo fatto sentire, Oliverio, qualora gli investimenti privati mancassero, investiranno con i soldi pubblici per poi dare la gestione a questi privati. È una cosa assurda. Una cosa gravissima. Soltanto pensarla, non dirla, è grave. Visto la situazione drammatica che abbiamo in questo momento. E nel frattempo la discarica di Celico è in onda di puzza e tanfa l'intera presira. La puzza in queste particolari condizioni climatiche sta arrivando anche in paesi dove solitamente non arriva, a Celico. Anche perché i volumi sono pure più alti. Sì, più, i volumi di abbanco sono aumentati, le tipologie di rifiuti sono indifferenziate, quindi diciamo che c'è un po' di schifezza in più, non è solo organico. E la situazione sta precipitando ancora una volta, come tutte le estati, e rende invivibile la vita delle nostre comunità, specialmente la sera, dove la puzza arriva addirittura dentro casa, anche con le finestre chiuse. Detto questo, che dire in più rispetto alla questione dei rifiuti? Noi comunque stiamo continuando a organizzare incontri pubblici in giro per i paesi, ne abbiamo in cantiere altri due o tre. Sta continuando ad andare avanti il progetto GAS. Questa settimana siamo stati a Spezzano Sile, il prossimo sabato saremo a Spezzano Piccolo. Sta avendo un grande successo. Comunque la gente inizia ad avvicinarsi a queste tipologie di progetti, non ci è abituata, però inizia a capire. Comunque è un percorso che si è avviato. Comunque quindi ogni mercatino è accompagnato da un mini dibattito in cui ognuno può intervenire. Intervengono i produttori, spiegano come producono le loro prelibatezze. E noi cerchiamo di spiegare cosa significa avere una situazione del genere sul proprio territorio. Detto questo, noi ci eravamo ripromessi, prima di chiudere, visto che siamo in chiusura, di fare un piccolo excursus extra regione e anche extra nazione, perché sta succedendo qualcosa di abbastanza storico, nel senso che in Grecia il governo di Siriza, con a capo Tsipras, ha indetto un referendum per far decidere alla popolazione greca sul suo futuro, fondamentalmente, ovvero se continuare a trattare con la Troica, con le multinazionali, con l'Unione Europea S.P.A., con le banche e con i creditori usurai, più che creditori, gli usurai della Banca Centrale Europea, oppure andare per la propria strada insieme ad altri partner, cercare di risollevare le sorti di una nazione che comunque, dove culla della civiltà, culla della democrazia, ancora una volta oggi si è dimostrata essere tale. Noi abbiamo visto, io personalmente, che sinceramente non ho mai visto tantissimo di buon occhio Tsipras, mi sono ricreduto in questi giorni, perché alla fine è riuscito a utilizzare un pugno di ferro, quello che dovrebbe fare la sinistra, difendere il popolo. Ha fatto una serie di iniziative, tipo dare corrente e le utenze essenziali in modo gratuito a chi non può più pagare le bollette perché è strozzato dai debiti, dalla troica. Insomma, ha fatto una serie di interventi di sinistra, che noi ormai abbiamo dimenticato cosa sono gli interventi di sinistra, perché noi abbiamo la sinistra al potere, ma che è più a destra della sinistra. Sì, quindi siamo un po' confusi. Diciamo insomma che nel deserto culturale e politico della sinistra europea, Tsipras e Siriza rappresentano una luce. E rappresentano comunque la volontà di un popolo, no? Di non piegare la testa rispetto comunque alle imposizioni dei mercati, alla dittatura dei mercati, all'arroganza dei creditori internazionali, delle banche centrali, della Banca Centrale Europea in particolare, del Fondo Monetario Internazionale. Quindi l'esempio di Tsipras e di Syriza è un esempio per tutti quanti noi ed è una lezione di democrazia. La lettera aperta che ha fatto Tsipras in questi ultimi giorni al popolo greco è un esempio di democrazia. E noi che insomma dovremmo tutti quanti, no, spogliarci di qualsiasi vanagloria, di qualsiasi comunque arroganza preconcetta, di qualsiasi professorismo, insomma chiamiamolo come vogliamo, appunto attingere a questa lezione di democrazia da parte di chi la democrazia storicamente poi l'ha davvero inventata. Appunto il popolo greco, quindi c'è una cosa da dire: la situazione è veramente difficile, perché nel caso insomma il referendum confermasse la volontà del popolo greco di dire no alla Troica, sicuramente ci saranno degli attimi di tensione anche a livello internazionale, le pressioni saranno impressionanti. Anche perché penso che gli Stati Uniti non permetterebbero mai che la Grecia entri nei BRICS. Sì, assolutamente, in ottica russa, cioè nel senso non penso che si accontenti di far diventare la Grecia una socialdemocrazia sotto la protezione russa. Ma poi sarebbe un esempio negativo dal loro punto di vista anche per altri paesi. Anche perché in Spagna adesso c'è Podemos. Insomma, diciamo in che Portogallo sta nascendo un movimento. Le cose stanno cominciando un pochino a muoversi e a cambiare, quindi la situazione diventa davvero ad altissima tensione, ecco. Quindi io invito comunque tutto il popolo italiano, non ci ascolterà sicuramente tutto il popolo italiano, comunque l'invito è rivolto a tutti, è quello di vigilare su questa situazione, perché qualora le cose andassero in una certa direzione, in Grecia si rischia di nuovo una dittatura dei colonnelli, quindi attenzione, dobbiamo essere tutti quanti solidali e nel caso schierarci e aiutare il popolo greco in questo difficile passaggio. Non solo a parole, assolutamente non solo a parole, e soprattutto far capire ai nostri signorini di sinistra in Italia e negli altri paesi europei che quello è un modo per difendere gli interessi del proprio popolo, quello è essere di sinistra, non a parole e non a slogan elettorali solo per raccogliere voti e poi andarsene a intascare i soldi dei cittadini. Questo giusto per, diciamo, per chiudere. Anche per fare un parallelo. Siamo insomma un po' confusi sul concetto di sinistra. Sì, siamo molto confusi. Per colpa del PD e dei PDini, che non lo sono, non lo siete, rassegnatevi. Bisognerà creare in Italia anche un'alternativa, come hanno fatto in Spagna e in Grecia. Loro sono venuti qui a fare scuola prima nel 2000, nel 2001. Tsipras era uno di quei greci fermati alla frontiera e non gli è stato permesso di arrivare al G8, e da lì hanno iniziato un percorso, dato un'alternativa al popolo greco da votare. È quello che in Italia in questo momento manca. Molte situazioni si sono ancorate al 2001 e sono rimaste ancorate lì. Bisognerebbe unirsi, come si sta cercando di fare nei comitati, nelle vere lotte sul presente sul territorio, e creare un'alternativa sociale e movimentista come è stata Podemos, Tsipras, che però vada a incidere direttamente nei posti di potere, altrimenti risulta difficile posizionarsi e prendere le decisioni e contrapporsi comunque allo stato attuale di cose. Poi comunque su Syriza ci sarebbe molto davvero da studiare, perché è un esperimento sociale e politico ad ampio raggio, perché proprio la genesi di Syriza ci insegnerebbe molto su come fare rete. Quindi è un invito davvero rivolto a tutti quanti. Noi stiamo facendo dei tentativi in piccolo, ci stiamo provando, ma è un invito che davvero dovrebbe essere esteso a tutti quanti, di prendere esempio da Syriza e da come l'abbiamo anche ricordato la situazione di Podemos, che il nuovo sindaco di Barcellona è un occupante di casa. È una donna di cui non ricordo il nome, che ha occupato una casa vuota. Come prendo casa di Cosenza o quelli in giro per l'Italia. Si tratta di movimenti nati totalmente dal basso, senza nessun veicolo politico, partitico esterno, diciamo, comunque dall'alto, diciamo così, non hanno sicuramente direzione dall'alto. E quindi con questo, con questo augurio, con questa speranza, con un applauso a Siriza, a Tsipras, a tutto il popolo greco e con tutta la solidarietà possibile che possiamo esprimere nei confronti del popolo greco, penso che ci possiamo salutare. Adesso mettiamo il sirtaki. Adesso mettiamo il sirtaki greco. Forza Siriza, forza popolo greco, forza, viva la democrazia.